Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Hanno trasformato una stanza della loro casa in una serra per la coltivazione della marijuana, con tanto di motore elettrico, interni termici, filtro per l'aria, ventolo di aspirazione e lampada fluorescente. L'hanno scoperto i carabinieri di Torino, che hanno arrestato due giovani fidanzati. Cosa spinge giovani apparentemente bravi ragazzi che studiano e lavorano a ideare, o meglio ad ingegnare, visto che due sono studenti di ingegneria all'Unical, un meccanismo tale per la produzione di droga? I tre 22enni risiedevano in un appartamento a renda, all'interno del quale, in un armadio di una delle camere da letto, avevano ideato e costruito una serra per la coltivazione della droga. Tutto era stato perfettamente congegnato, avevano rivestito le pareti dell'armadio con dei fogli in laminato d'alluminio. Evidentemente girano troppi film, troppi telefilm in cui delle menti eccelse in mancanza di occupazione migliore si mettono a produrre sostanze stupefacenti. Questo è l'aspetto illegale della faccenda, ma c'è un aspetto legale per cui, ai sensi di una legge che ha un paio d'anni circa, la marijuana ad esempio come elemento terapeutico in alcune situazioni con prescrizione di medico può essere assolutamente consumata, e quindi naturalmente ci sono delle farmacie, quelle che fanno preparati galenici, che fanno preparati a base di marijuana. Arriva il paziente con la ricetta medica: ho bisogno di questo particolare preparato a base di marijuana perché azzardo, non sono un competente di vicende mediche, ma ci sono delle magari come terapia antidolorifica, antidepressiva, non so bene. Comunque sia, la legge dice che il farmacista può farti un preparato a base di marijuana e quindi ti fa il preparato, te lo prendi. Però il Ministero della Salute ha cominciato a vedere qualcosa che secondo lui andava un po' visto con più attenzione. La marijuana viene coltivata ufficialmente in Italia, l'abbiamo parlato, abbiamo fatto fior di trasmissioni, dallo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, dove ci sono dei farmacisti militari che hanno filari di cannabis e la coltivano. Hanno visto che nel 2016 sono stati spediti in farmacia italiani 40 kg di marijuana, che non so esattamente dare una circostanza percentuale, ma secondo loro era troppo. Hanno cominciato a fare qualche indagine, hanno visto che alcune farmacie avevano nei loro siti internet, ma come giusto che sia, dove propagandavano, offrivano i loro prodotti galenici, anche la marijuana tra questi preparati. Secondo il Ministero della Salute, queste farmacie violavano una legge, che è un decreto legge del 90, che recita che non si può fare propaganda a sostanze stupefacenti. È la legge che regola tutto l'uso e l'abuso degli stupefacenti. Cioè, non si può fare propaganda a stupefacenti. Una legge scritta prima ancora che fosse liberalizzata la marijuana per uso terapeutico. Quindi queste farmacie, e per l'esattezza sono 7 farmacie galeniche in Italia, ma si presuppone che arriveranno ad altri, sono visti affibbiare una multa di 8.600 euro perché hanno fatto pubblicità ingannevole alla cannabis terapeutica. Ecco, questo è un problema secondo me interessante. Pongo al pubblico la domanda, visto che più volte ci siamo allargati su questo tema, abbiamo visto quanto l'inventiva nazionale sia stata feconda e proficua nel campo dell'arrangiarsi nella coltivazione clandestina. Non è che qualcuno di voi gli è venuto in mente di trovare la maniera di farsi fare una ricetta per farsi la sua dose di sollievo, passatempo, divertimento, divagazione, fuga domestica quotidiana? 800 24 0024, ci sentiamo tra un istante per approfondire questo problema. Melog, cronache meridiane. Una semplice piantina, perché tenendo presente che non sono un estimatore, non fumo nemmeno le sigarette, però mia moglie ha contratto un cancro, dopo le odissee che ne conseguono è rimasta la parte psicologica, e l'ho curata con grande successo con l'erba del geranio. Ho avuto una volta una piantina, le ho coltivate per un pochino, ma non ho neanche fatto in tempo ad affezionarmi, sì, però in realtà non ho neanche fatto in tempo a vederle crescere e produrre quanto interessava di più, perché mia mamma una volta venne a casa mia, a mia insaputa, e ci buttò dentro la canteggina. Noi facciamo tutto da noi, dentro casa, fuori no, parla di una serra interna, luci, trattamento dell'aria, ma diciamo che la casa è stata presa proprio per quello. questo per farvi capire quanto poi le leggi non riescano a seguire quello che è l'evoluzione rispetto a un'attività, un problema nel nostro paese. Noi abbiamo fatto una puntata qualche mese fa sulla coltivazione spontanea di quelli che abbiamo chiamato i gerani, perché non volevamo fare istigazione a delinquere, e tutti ci hanno chiamato dicendo come coltivano i gerani. C'è gente che si organizzava con serre dentro casa, rinunciava al salotto per coltivare i gerani dentro casa, ma ne sono arrivate centinaia di queste dichiarazioni di pubblica coltivazione del geranio. Però qua non di gerani stiamo parlando, ma stiamo parlando di cannabis. La cosa da capire è che se questo divieto è generale per le farmacie galeniche di pubblicizzare i loro prodotti, o è specifico, perché il sospetto ministeriale è che queste farmacie, pubblicizzando la loro lecita preparazione galenica, attirerebbero comunque persone che in qualche maniera potrebbero scambiare il lecito acquisto di una sostanza stupefacente ad uso terapeutico come una sorta di spaccio autorizzato. Ma questo vorremmo capirlo meglio, e per capirlo meglio abbiamo al telefono la presidente di Federpharma, dottoressa Anna Rosa Racca. Buongiorno. Buongiorno. Ci fa capire bene esattamente cosa stia succedendo? Perché sono prese così sott'occhio le farmacie per una pubblicità in rete che tratta tutti i prodotti che loro fanno, anche il callifugo o il purgante, ma anche e soprattutto i preparati con marijuana sono sotto l'occhio, diciamo, di queste sanzioni? Oppure in generale non si può fare pubblicità di quello che si fa e si costruisce all'interno della farmacia? Allora, intanto grazie di questa telefonata. Io purtroppo non sentivo quello che lei ha detto, l'ho sentito molto male, però ho riassunto quello che oggi esatto, su tutti i giornali. Lei ha detto delle cose molto giuste. Lei ha detto che il governo italiano alla fine del 2013 ha legalizzato l'uso della cannabis per uso terapeutico, e che dall'inizio del 2017 anche l'Italia è diventata produttrice di cannabis terapeutica presso lo stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze. Quindi diciamo, cosa è successo? Che le farmacie, tutte le farmacie hanno un laboratorio galenico, ma forse soprattutto quelle più attrezzate, hanno cominciato ad allestire e spedire ricette fatte dai medici. Però mi sembra giusto, è il loro mestiere, anzi. È il nostro mestiere. Quindi diciamo, non ci può essere, se vuole, una possibilità di incrementare la domanda, perché c'è una ricetta. Quindi semmai se la prendono con i medici e fanno le ricette, probabilmente, se questo no, è il problema. Ma il medico fa la ricetta, naturalmente, nei casi che lui ritiene doveroso dare. Ecco, ce ne dice qualcuno quali sono i casi in cui viene, ma diciamo, prescritto? Si usa proprio ho sentito forse uno o due persone che parlavano prima, proprio quando nella terapia del cancro, quindi il dolore è terapia del dolore, ecco. In genere la terapia del dolore. Allora io penso che... Quindi mi scusi, quindi dottoressa sono circostanze serie, non è che uno se la fa prescrivere perché è depresso. Ecco. Ma la farmacia lo deve ordinare in una certa maniera, viene ispezionata, queste ricette sono particolari, quindi è tutto assolutamente regolare. E voi dove la tenete? In un armadietto dove stanno gli stupefacenti farmaci? Assolutamente, nel laboratorio, un armadietto tutto riservato. Quindi io penso che la farmacia sicuramente ha sbagliato, perché non si può fare pubblicità per le farmaci che si vendono con ricetta medica, ancora di più per gli stupefacenti. Penso anche che però questo forse sia uno di quei casi in cui la tecnologia, il progresso tecnologico, chiamiamolo informatico, di geolocalizzazione, forse ha offerto, non so se è la parola giusta, l'opportunità, ma magari ha fatto sottovalutare, diciamo, il fatto che l'obbligo era di legge quello di non pubblicizzare. Ecco, quindi forse bisogna fare più chiarezza in questo senso. Ecco, decodifico per gli ascoltatori quello che mi sembra aver capito anche io. Molte volte la farmacia ha la sua pagina internet dove dice quello che fa, dice che preparati galenici. Queste non lo facevano sulla loro pagina internet, era su certi motori di ricerca che ancora... Però gli aggregatori vanno a cercarsi tutte le farmacie fanno un sito, dice guardate tutte le farmacie che fanno preparati galenici, e uno sarà un pochino più esposto di quello che pensava. Esatto. Per cui con la ricetta questo non è vietato. Ecco. Ecco, quindi lì c'è stato, se vuole, una sottovalutazione, forse appunto non è stato naturalmente valutato, perché comunque... Certo, 8.600 euro è una multa seria, non è... Sì, una multa forte, ma giustamente non si può fare la pubblicità per un farmaco che è prescritto con ricetta medica, tanto più uno stupefacente. Ecco, io penso che forse c'è stata una sottovalutazione, forse è stato un errore in buona fede. Ecco, certamente, diciamo, dobbiamo forse magari fare maggiore chiarezza. Ecco, lei ha qualche numero di quante sono le farmacie in Italia che fanno questo tipo di preparato? In teoria tutte quelle che hanno un laboratorio galenico. Cioè, le farmacie italiane tutte hanno un laboratorio che viene ispezionato da quelle che sono le ispezioni che naturalmente le autorità sanitarie fanno. Poi ci sono le farmacie che sono più attrezzate. Certamente sono molto più di 7 le farmacie che in tutta Italia fanno la preparazione. Quindi questa mattina sudore freddo in tutti i farmacisti d'Italia. Devo dire che bisogna stare molto attenti, come le dico, diciamo, non cerchiamo di non sottovalutare quello che la tecnologia informatica può fare, perché spesso e volentieri magari anche un danno. Quindi se lei questa mattina dovesse dare un consiglio ai farmacisti, togliete dai vostri siti la pubblicità ai preparati galenici con cannabis. Assolutamente sì. Ci avranno già pensato, che penso che stamattina sarà corso il panico. Ma non penso che sia corso il panico, perché noi facciamo il nostro dovere tutti i giorni, e lo dimostrano i 4 milioni di cittadini che tutti i giorni vengono alle farmacie italiane. Ricordiamoci che la farmacia italiana è il primo presidio sociosanitario del nostro straordinario sistema sanitario. Quindi il nostro lavoro lo facciamo molto seriamente, mi sembra che queste farmacie lo stiano facendo molto seriamente, perché come le dico, sono delle ricette prescritte da un medico, che hanno tutte delle regole. Bisogna stare attenti a volte anche all'informatica, alle geolocalizzazioni e alle reti. Secondo lei, per finire, questo dato che è stato detto, i 40 kg di marijuana, è qualcosa che dà l'idea di un maggiore consumo, una maggiore richiesta ultimamente di questo tipo di preparato, oppure rientra nella norma? Non so valutare se tanto poco, dico soltanto che prima non era possibile farlo, i medici non lo facevano. Naturalmente da quando è stata l'Italia ha introdotto l'uso della cannabis terapeutica per uso medico e terapeutico, allora sono arrivate le ricette. Quindi aumenta, diciamo, la cultura che può essere anche usata la cannabis, certo. Quindi i medici consapevoli la prescrivono aumenta di più. Aumenta la cultura, diciamo, del dolore, di togli di sì, se quasi c'è un atteggiamento sempre un po' moralistico ministeriale, che sì, è passata la legge, però a denti stretti la stanno mettendo in pratica molte persone, e allora ci facciamo un controllo e cerchiamo di capire perché la gente si fa. Ma passato il principio che la cannabis è un agente terapeutico e viene usato in casi molto dolorosi e molto estremi, molto specifici, anche limitati, voglio dire, quindi quelli che naturalmente quindi sono sotto le norme del governo, insomma. Io la ringrazio, dottoressa. Passo a qualche ascoltatore. Allora, abbiamo avuto, diciamo, intanto il punto di vista importante di Federpharma. Sentiamo un po' la reazione degli ascoltatori. Voi cosa ne pensate? Vi è venuta mai l'idea, a meno che non abbiate avuto una patologia grave, di andare in farmacia a chiedere la cannabis o farvi fare una ricetta per avere un preparato a base di cannabis? Qualcuno informato dei fatti dice: guarda, che è molto più semplice comprarsela dall'amico dell'amico che andare a perdere tempo a trovare una ricetta, un dottore, una farmacia. Vediamo Nicola che dice. Nicola, buongiorno. Buongiorno, era proprio questa la riflessione. Ora, fermo restando che la legge vieta che i farmaci soggetti a prescrizione non debbano essere pubblicizzati, però nel momento in cui questo farmaco, la cannabis, è ritenuta terapeutica per alcune patologie specifiche, io non dico una pubblicità, ma un'informativa adeguata, in modo che il cittadino possa orientarsi adeguatamente nell'ambito di questa di questo settore, ci debba essere, perché altrimenti si rischia di finire nelle mani, a stavolta anche legali, di chi, dell'amico all'angolo, che ti dà quello che vuole, insomma, ecco. Sì. Ecco perché dico un'informativa. Sì, lei ha perfettamente ragione. Dovremmo dire, passata una legge, se sei in una situazione in cui il tuo problema può essere in parte alleviato dall'uso di cannabis legale, sappi perché che puoi no? Comprare. Perché c'è dietro un grosso pregiudizio di tipo morale, etico, mai qualcuno la darebbe come alternativa. Siamo in un paese in cui può essere venduta una pillola, diciamo così, detta del giorno dopo, e ancora molti farmacisti fanno gli obiettori di coscienza, ma ci sono farmacie che uno ha difficoltà a comprare un preservativo. Lasciamo perdere in che paese ci troviamo. Anna Rosa Racca, devo aggiungere qualcosa? Scusi, l'avevo salutata, ma chiaramente ha libertà di parola finché dura la trasmissione. Volevo soltanto dire a tutti quelli che ci ascoltano che in questo nostro paese noi abbiamo una grande opportunità, quella di avere tanti medici e tante farmacie, tanti farmacisti che ci lavorano dentro. Quindi, siccome la salute è la prima cosa, non guardiamo internet, dove spesso e volentieri i farmaci sono tutti falsi e le informazioni non sono corrette. Rivolgiamoci al nostro medico e al nostro farmacista. Ha detto una cosa sacrosanta: chiamate il farmacista. Allora, il sito della farmacia è utile, perché uno ha l'indirizzo, l'orario d'apertura, il nome del farmacista e il telefono. Chiamate direttamente il farmacista piuttosto che cercare notizie in internet. Mi sembra giusto, mi sembra perfettamente giusto. Paolo, buongiorno Paolo. Buongiorno Nicoletti, buongiorno, grazie di avermi richiamato. Dovere, prego. Mi sente bene? Ma un po' in viva voce, dovrei segarla, però andiamo avanti, sta guidando, non voglio privare l'Italia di un farmacista, quindi guidi tranquillo e parli. No, mi fermo senza nessun problema. Sostanzialmente ho sentito la presidente di Federpharma che ha detto quasi le stesse cose che avrei detto io. Sostanzialmente i colleghi, io sono farmacista, hanno peccato di ingenuità, a dire una parola grossa, voglio dire, lo sappiamo benissimo. Cioè, siamo in Italia, fa la pubblicità che faccio la cannabis anche terapeutica, è chiaro che qualcuno prima o poi scrive una letterina. La legge non ammette ignoranza, certo. Io credo che siamo tutti laureati, e dico, anzi, sono sicuro che siamo tutti laureati, e le regole le conosciamo dall'università, di conseguenza i colleghi hanno fatto un errore, punto, basta, cioè, è un errore che è proprio banale, nel senso che i farmaci con obbligo di ricetta non possono essere pubblicizzati da nessuno in Italia. Adesso bisogna capire bene se il problema è degli aggregatori, dei motori di ricerca, di quelli che fanno i siti, che offrono servizi, che vanno a prendere copia e incollare cose prese da altri siti, o i farmacisti veramente si pubblicizzavano il loro preparato galenico. Questo è da capire. È chiaramente una questione tecnica, sì, che non credo che competa a noi pensarlo. Chiaro che sarà anche eventualmente da oggetto di indagine e di difesa da parte dei colleghi. È vero che qualcuno quell'informazione deve averla scritta, quindi certo, ovviamente se c'è stata un'informazione del genere, anche perché, come ha detto la Presidente, tutte le farmacie d'Italia possono fare questi preparati. Di conseguenza è quella che si definisce in legislazione farmaceutica una pubblicità comparativa ingannevole. Sì, uno può dire, vieni da me, c'ho la marijuana più buona degli altri, te la faccio come nessuno te la fa, è chiaro. Vieni da me perché io la faccio e gli altri no, cosa che non è vera. Vede, però lei mi sta dando un'informazione, anch'io pensavo che fosse una specializzazione di alcune farmacie, in realtà tutte lo possono fare potenzialmente. Sì, assolutamente, gli unici che non possono farle sono le parafarmacie, perché non hanno l'autorizzazione a spedire farmaci con ricetta con ricetta medica, mentre possono fare il galenico non sotto prescrizione, ma sempre farmacisti solo, ma visto che lavorano in un ambiente diverso. Sì, posso fare la cremina, lo sciroppino, ma non posso fare il preparato naturalmente di questo, esatto, tipo. Quindi è proprio, cioè, non ci vedrei la persecuzione ministeriale nei confronti della cannabis. Va bene, ci fermiamo solo un istante, perché visto che abbiamo molti ascoltatori, invece vogliamo, quello ci interessa a noi è il risvolto sociale di questa notizia, capire come la gente ha recepito il fatto che la cannabis entri comunque fra i farmaci possibili per particolari tipi comunque di problemi, di patologie, e come molte volte qualcuno possa aver pensato che magari andare in farmacia trovando la possibilità di avere una ricetta medica potesse essere, ma su questo molti dubbi, un sostituto dell'amico dell'amico che di solito sa esattamente dove trovare quello che si cerca. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, ci troviamo di fronte a un problema che sembra in sé paradossale. Mi stanno scrivendo molti ascoltatori dicendo: a noi conviene andarla a comprare dallo spacciatore, ci costa meno di quanto costerebbe andarla a comprare in farmacia, anche se abbiamo delle patologie che richiedono comunque l'uso di questa cannabis, anche se stiamo parlando ancora di un campo ampiamente sperimentale, almeno nel nostro paese è ancora non provato, per alcuni gravi problemi, come ha detto la presidente di Federfarma, come, che ne so, sclerosi multiple, tumori, dolori oncologici, poi non voglio fare la trasmissione medica, è diciamo accertata, ma ancora che faccia bene per la depressione o per altre cose, secondo me ancora c'è un po' di letteratura da studiare. Sentiamo Simone. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Io ho una conoscenza abbastanza diretta dell'utilizzo a fini terapeutici, perché sì, mio suocero è in terapia del dolore da alcuni mesi, sta utilizzando cannabinoidi. Quindi lei va in farmacia naturalmente a farsi fare il preparato? No, non è assolutamente così, perché scopro dalla sua trasmissione che tutte le farmacie potrebbero prepararlo. In realtà è un viaggio della speranza, stiamo parlando della Lombardia, che dovrebbe essere probabilmente anche l'eccellenza da questo punto di vista. In realtà mia suocera, per farsi preparare le somministrazioni, deve fare dei lunghi viaggi, perché sono poche le farmacie che danno la disponibilità a realizzare le compresse o i preparati con il principio attivo. Lei è andato a chiedere delle farmacie, dice, mi fai il preparato terapeutico o la, certo, ricetta? Lei aveva la ricetta, no? Sì, sì. E sì, cosa le hanno detto? Che non lo fanno, non sono in grado, non hanno tutte le disponibilità, penso, tecniche. Adesso chiediamo tecnicamente cosa serve, perché abbiamo al telefono chi invece lo fa tranquillamente, capire. Le faccio un esempio da Monza, quindi Interland Milanese, il posto più vicino e più disponibile che siamo riusciti a trovare in provincia di Bergamo. Quindi al di là dei costi c'è anche proprio... Quindi il paradosso, le dico un paradosso, naturalmente che non è un'istigazione al crimine, farebbe prima farsela dare da un qualsiasi pusher domestico. Sì, ma ci fosse almeno la garanzia della qualità del prodotto, potrebbe essere un'alternativa al netto delle... O se no farebbe prima, come centinaia di nostri ascoltatori ci hanno detto, che se la coltivano in casa, uno invece del basilico si coltiva quella roba e la dà alla suocera. Non abbiamo il pollice verde, un'ipotesi che non abbiamo preso in considerazione. Va bene, questo mi interessa come argomento. Moreno, buongiorno. Moreno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io chiamo perché ho da poco ho saputo una notizia che comunque è pubblica, si trova anche in internet. È una ditta emiliana che produce marijuana e la vende, e sembra sia legale perché ha un valore più però basso. È l'Easy Joint, quella che ha basso contenuto, diciamo, di principio attivo. Sì, sì. Che però comunque a tutti gli effetti avrà forse un effetto un po' minore, ma lei dice ne prendo tanta, è come quella buona. Beh sì, alla fine insomma, e poi il prezzo anche mi sembra che sia... Io qualcuno informato dell'argomento mi dice che ti puoi fare anche un beverone, ti puoi fare un'indigestione, ma alla fine è come prendere la camomilla, comunque va bene. Non è materia che onestamente, ma non è perché voglio darmi, non fumo nemmeno sigarette, quindi non so, non ho pratica di questa roba, però mi dico, magari qualche ascoltatore più informato ci dice, se l'Easy Joint che si vende tranquillamente lo produce un'azienda italiana, sarebbe come la Coca-Cola Light, la marijuana a basso contenuto di principio attivo, in effetti serve per fare gli infusi e le camomille, oppure ha un effetto stupefacente. Dottor Francesco Armato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei, dottor Armato, l'ho fatta ascoltare in silenzio al telefono finora, perché volevo che si facesse un quadro in generale ho della situazione. Ho ascoltato con attenzione e con molto interesse. Ecco, mi dà adesso la sua, è una farmacia, la farmacia del Pigneto, via del Pigneto a Roma, che mi sembra che produca questo preparato galenico tranquillamente. Sì, noi lo effettuiamo ovviamente dietro richiesta di prescrizione, come è stato spiegato dalla Presidente Racca, seguendo tutte le norme e i protocolli chiaramente. Poi voi siete anche collocati, questo lo dico perché nella Romagna è un quartiere sì, abbastanza, ha la nomea di essere il quartiere degli sballati di Roma in parte, quindi un pochino è vero. Al Pigneto si va a comprare la roba quella buona, però c'è anche la farmacia che fa la roba legale. Ecco. La nostra è una farmacia secolare, perché è del 1900. Sì, è una storica farmacia romana, avete questo. Allora, mi dice però, l'ascoltatore ci ha chiamato e ci ha detto che in realtà lui ha una parente con seri problemi legati a un tumore e sì, trova questo viaggio difficile trovare suoi colleghi che gli facciano questo preparato, come mai? Ma guardi, in realtà è vero tutto quello che è stato detto in precedenza, che tutte le farmacie possono allestire il prodotto, Quello che è da dire è che probabilmente innanzitutto c'è una difficoltà di reperire la sostanza e la materia prima, per così dire. Perché bisogna ordinarla a Firenze, non è che te la diano così. Allora, adesso da qualche mese anche l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare ha iniziato la produzione e la vendita. Diciamo che rispetto alla domanda e alla richiesta, diciamo, la quantità disponibile è ancora poca. Ah, quindi obiettivamente questi due anni, anche se c'è stata poca informazione, esatto. I medici hanno recepito il fatto che possano prescriverla? Ah, ci sono alcuni medici che hanno recepito, diciamo che c'è un'indicazione del Ministero molto chiara, nel senso che il medico dovrebbe prima, il protocollo prevede che prima siano state tentate tutte le terapie, chiamiamole convenzionali, per così dire. Quindi una volta dimostrato che il paziente non risponde o è refrattario alle terapie convenzionali, si può utilizzare la cannabis per scopo terapeutico. L'impiego principale è quello che è stato detto, è per la terapia del dolore, dolori gravi, dolori severi da tumore. Abbiamo anche un paziente che è malato di SLA e che lo sta utilizzando, per esempio. Ma al di là di queste, diciamo, queste prescrizioni per gravi patologie, esistono prescrizioni per qualcosa di ancora non così scientificamente scritto nella letteratura scientifica, non so, uno depresso, uno... No, almeno nella mia esperienza non mi è mai capitato. Noi appunto stiamo facendo preparazioni per la terapia del dolore esclusivamente. Ma è una cosa complicata, a voi come vi arriva? Vi arriva sotto forma di foglie? Arriva proprio sì, l'infiorescenza. Arriva. Esatto, normalmente arriva dall'Olanda. E arriva dall'Olanda tramite un distributore, chiaramente. Che però mi sembra che vedo i prezzi rispetto a quella italiana, quella olandese costa diciamo all'utente finale 20 euro al grammo e l'altra costa 15, costa un po' meno quella italiana. Costa un pochino di meno, sì, esattamente. Il problema appunto è quello. Ma è roba buona anche quella italiana o quella olandese? No, è no, meglio? No, sono entrambe, arrivano ovviamente accompagnate da una scheda tecnica con la certificazione, chiaramente. Io mi rendo conto che chi ascolta questa trasmissione e chi usa la marijuana non per uso terapeutico c'ha l'acquolina alla bocca, subito gli viene arriva, però è così, è questo. Arriva l'infiorescenza, l'utilizzo principale è fatto sotto forma di cartine, viene fatto normalmente, viene fatto poi un decotto, cioè noi prepariamo la cartina con l'infiorescenza. Come il tè, uno fa una tisana. Perfettamente, si fa un decotto e questo decotto viene poi appunto assunto per via orale. E uno volendo, però il contenuto del sacchettino non è che se lo può fumare, può soltanto usarlo come decotto? No, si usa solo come decotto e poi mi riferiscono i pazienti che utilizzano poi anche la parte, diciamo, la parte che rimane, no? Fanno riseccare, diciamo, le foglioline e le usano? Perfetto. Le usano, le masticano oppure le impastano nei dolci. Beh, così non si butta via niente, giustamente. Non si butta via nulla, visto anche il costo della terapia. Allora, fermo un attimo, dottore, volevo farle parlare. Ho due ascoltatori che ci possono aiutare a integrare le informazioni. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Niente, io volevo dire che alla fine la cannabis medica che venderanno qua in Italia non sarà altro che simile a un tabacco. Quella realmente medica la si può soltanto trovare per adesso in Svizzera, che ha livelli di cannabinoidi, cioè CBD, intorno al 16-17%. Quindi lei dice che è una marijuana depotenziata comunque? Sì, senza principio attivo, cioè senza THC e con un CBD veramente irrisorio, quella italiana. In Svizzera, in Svizzera invece si vende marijuana di quella, diciamo, col principio attivo più alto per uso terapeutico? Sì, si parla sempre di CBD, cioè se con una percentuale di CBD intorno al 17%. Ma lei è così esperto perché la usa per fumarsela o la usa come uso terapeutico, per capire così? No, io semplicemente è una mia curiosità personale, ho scoperto questi specie di grow shop che in Svizzera, a differenza dell'Italia, vendono anche la cannabis medica. Ma uno può comprarla anche online, cioè io potrei comprarmi della cannabis ad alto principio attivo comprandola online da una farmacia svizzera? Solo sul territorio svizzero, dall'Italia non si può importare. Ma quindi solo se la ordino dalla Svizzera? Dovrei andare al confine, avere un amico oltre il confine e dire me la compri e poi me la vengo a prendere? Certo, sì. Ed posso fare qualsiasi uso. Dottor Francesco Amato, corrisponde in realtà a quello che dice l'ascoltatore, che in realtà la marijuana, la cannabis che si vende in farmacia si vende, si prepara in farmacia per uso terapeutico, è a basso principio attivo rispetto a quella che si vende in Svizzera? Allora, quella che si vende in Svizzera non la conosco. Noi abbiamo, cioè ci sono dei protocolli riconosciuti con una percentuale che prevedono la presenza di una percentuale di tetraidrocannabinoidi. Quindi noi certifichiamo che nella nostra preparazione vengano inseriti i quantitativi prescritti dal medico. Saranno quelli poi che prescrive la legge. Quindi, perché non è... che prescrive la legge, quindi addirittura hanno proprio registrato questi prodotti con dei nomi. Con dei nomi, quindi proprio con dei nomi brevettati. Quindi per quel tipo di prescrizione bisogna certificare che tu inserisci la quantità di principio attivo prescritta dal medico. Ci fermiamo solo un istante, dottore, che dobbiamo lasciare la linea, poi riprendiamo con lei, con gli ascoltatori, ci fanno molte domande. È un tema, vedo, molto sentito. Melog, cronache meridiane. 800240024, fantastico questo sms che mi è arrivato. La banalità del male, tutti questi alternativi che mendicano la droga dalla mammella del potere. Ma è fantastico, vorrei scriverla come frase esemplare, la mammella del potere. A chi viene prescritta, da quello che ci risulta, le persone che abbiamo sentito finora, la cannabis terapeutica, sono persone che hanno malattie invalidanti gravissime, dolori continui. Se riesce in qualche maniera a alleviare i loro dolori, non mi sembra che siano degli alternativi che mendicano droga dalla mammella del potere. Sono esseri umani che soffrono molto e probabilmente tentano con questa strada per soffrire meno. Franco, buongiorno. Buongiorno, voglio fare un esempio semplice. Chi si ricorda la vecchia Coca Buton? Sì, certo, sì, sì. Che era una specie di chinotto, cos'era? Una cosa così? No, era proprio un estratto di coca senza principio attivo. Senza principio attivo. Sì, ma insomma, quello era. Non... Il joint è quello praticamente, è una Coca Buton dei tempi moderni. Lei l'ha provato l'Easy Joint? No, non ho avuto il piacere di provarlo, però diciamo che è privo di principio attivo, quindi è più un'illusione. Vabbè, non, come le sigarette di cioccolata che sono nella calza della Befana, la stessa cosa. Certo, quindi la vecchia Coca Buton era praticamente l'estratto di coca, però senza principio attivo, che era la stessa cosa. Diciamo che vabbè, ci sono pubblicità farmaceutiche dell'inizio del Novecento che prescrivevano eroina ai bambini. L'eroina li fa diventare paffuti, grossi. Erano percezioni diverse, probabilmente anche sostanze diverse da quelle che oggi pensiamo noi. Certo, anche il concetto era diverso. Certo, un altro concetto, non si capisce. Allora, Vittorio, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo intervenire solo per una piccola precisazione. Il vostro ospite che parlava appunto della cannabis terapeutica faceva riferimento al THC. Sì. In una telefonata successiva c'era un ragazzo che parlava della Svizzera e del CBD. Quello, ecco, esatto. Queste sono due cose completamente diverse. Il THC è il principio attivo che c'è dentro nella canapa, che è quello, diciamo, da sballo. Quello che sballa, CBD, sì. Il CBD è invece un principio attivo che è un rilassante e via. La combinazione di questi due della cannabis terapeutica ha degli effetti eccezionali. In libera vendita, totale libera vendita in Italia, c'è il CBD. Si può trovare in qualsiasi negozio di sigarette elettroniche, da usare nella sigaretta elettronica senza problemi. È quello che rilassa, Sì, è un rilassante, piacevole, basta. Si estrae sempre dalla cannabis? Sì, sì, è uno dei due principi attivi principali, come potrà confermare il farmacista, se è ancora in linea con voi, è uno dei due principi. Poi mescolati insieme in quella terapeutica hanno degli effetti. Però lei deve capire, Vittorio, che attorno comunque alle sostanze stupefacenti vietate esiste tutta una sorta di epopea di esperti, di espertoni, di persone, e naturalmente c'è questa ritualità che in qualche maniera viene profanata e secolarizzata dal fatto che cominciano in farmacia a vendere più o meno la stessa sostanza per uso terapeutico sotto un controllo medico, quindi previa farmacia. Va a rompere un po' una sorta di sacrario, di detto e non detto, di parole di passo, di sotterfugi, che sono sempre state legate. Se la cannabis fosse stata legalizzata 10 anni fa, ma nemmeno staremmo a parlare noi né della pubblicità né dei principi. Questo penso che sia abbastanza chiaro. Alfonso, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, io sono neurologo di Torino, per cui da un mese e mezzo ho cominciato a prescrivere cannabis terapeutica con una farmacia di Torino che la prepara galenicamente in maniera eccezionale, peraltro. Quindi ci vuole solamente un'attrezzatura che bisogna investire, acquistare un'attrezzatura per estrarre la sostanza. Loro la prendono dalla Toscana. Da quindi a Milano c'è il farmacia che lo fanno? Nonostante... A Torino. Cioè, quindi lei però come medico registra il fatto che non sia poi così facile trovare farmacie che hanno l'attrezzatura per fare questo tipo di lavorazione? No, questa è la prima farmacia che fa a Torino, è la prima farmacia a Torino e ha cominciato un mese e mezzo fa, dopo che ha avuto si è messa in regola con tutti i protocolli e estrae la sostanza in maniera veramente eccellente. Io ho messo già in terapia 20 pazienti. Ecco, lei mi dice, lei è un neurologo, però mi faccia capire, perché l'urologo per cosa la prescrive lei? Io la prescrivo per tutte le terapie di dolore cronico, le neuropatie dolorose, nel morbo di Parkinson, per le retrazioni, per i crampi, per i dolori nei Parkinson avanzati, nella profilassi dell'emicrania. Ma come funziona? È lei che, diciamo, avendo studiato e approfondito questo tema, propone al suo paziente, dice: guarda, potremmo tentare questa strada, che è una strada nuova almeno in Italia, così funziona? Soprattutto per le patologie già resistenti ad altri farmaci, cioè se ci sono provate gli altri dolorifici. Poi c'è questa, come diceva giustamente lei, c'è questo atteggiamento giudicante moralistico da sempre. Questo è l'aspetto che mi interessa, questa trasmissione, certo, che non è una trasmissione medica, è questa. Esattamente. Con la codeina, che è un derivato morfinico, che si poteva dare, insomma, un precursore dell'eroina tranquillamente, no? Le spiego, dottore, mica per niente, io ho un figlio con problemi epilettici, me l'hanno proposta anche a me, ma non mi pongo un problema tipo morale, però già ho dei messaggi, dice: Nicoletti, ci giochi per far passare la liberalizzazione, come ti sei allineato, già c'è un portato ideologico, ma più che ideologico, etico-moralista sul fatto che uno provi a parlare liberamente e tranquillamente di qualcosa, che però dietro c'è la parola cannabis, che corrisponde a tutte le parole che corrispondono a un'attività trasgressiva. Dottor Francesco Armato, per concludere con lei come vede lo sviluppo di questa attività? Il problema grosso è quello che mi interessava di capire questa mattina, è un problema proprio di tipo di pregiudiziale più che di tipo di applicazione medica. Riusciremo a superarlo, secondo lei, dalla sua esperienza al quotidiano al banco della farmacia? Ma io auspico di sì e sono convinto di sì. Non sinceramente, nel mio operato ad oggi non ravvedo questo problema di tipo pregiudiziale. Il problema oggi, se c'è, forse risiede ancora nel fatto che la terapia non è accessibile a tutti per il costo. È una terapia costosa. La ringrazio, dottore, e grazie a quelli che hanno collaborato. Ci sentiamo alla prossima.